verità. Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Alessandro Milan è una gloria radiofonica. Ma per tutto il mondo, Francesco, porta la pace, la gioia e l'amore. Dona a tutti la speranza di una vita che non muore. La tua vita è nella luce. In letizia e povertà, con la bisaccia in spalla, a piedi nudi vai. Nel cuore la carità, nella mente la sua croce, nel corpo. Una persona che pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano. Non è cristiano, dice il Papa. Ma di chi parla? Di chi parla? Parla di Donald Trump, forse il candidato repubblicano per la Casa Bianca. Donald Trump non è un cristiano. E Trump si è arrabbiato tantissimo. Ha detto: è una vergogna, è una vergogna. Se l'ISIS attaccherà mai il Vaticano, mi vorrà presidente degli Stati Uniti il Papa. Trump. If and when the Vatican is attacked by ISIS, which as everyone knows is ISIS's ultimate trophy, I can promise you that the Pope would have only wished and prayed that Donald Trump would have been president. Cioè, non so se avete capito, se l'ISIS attaccasse il Vaticano, allora il Papa pregherebbe perché a quel punto ci fossi io presidente degli Stati Uniti. Come dire, li sistemo io. Ma insomma, non è cristiano. Poi quello che mi diceva, cosa consiglierebbe? Votare o non votare, non mi mischio, soltanto dico: questo uomo non è cristiano. Non è cristiano, è Trump, dice: è una vergogna, vergognoso, io sono una brava persona, un bravo cristiano. The Pope is being told that Donald Trump is not a nice person, okay? Donald Trump is a very nice person, and I am a very nice person. And I'm a very good Christian. Mamma mia, ragazzi, che t'ha combinato il Papa. Ha parlato anche delle gravidanze. Sapete che c'è la questione di Zika. Ha detto: aperto alla contraccezione, nel senso che ha detto: per evitare il virus Zika, forse il male minore è la contraccezione. Evitare la gravidanza non è un male assoluto. E in certi casi, come in questo, io so già che a una donna di sinistra come Luisella Costamagna piacerà questo Papa che interviene così a gamba tesa. Luisella, buongiorno. Buongiorno. Ben buongiorno svegliata, come stai? Sono raffreddatissima. Raffreddatissima, cominciamo bene. Però è venerdì, bene. Dai, è venerdì. Ma questo non toglie che abbia raffreddore, no? Però non è che il venerdì ti toglie che ha raffreddore, però insomma, è venerdì, pensavo fosse una buona notizia. Di solito per me è una buona notizia, perché il sabato e la domenica non mi sveglio alle 5, per esempio. Comunque è una buona notizia, quella del Papa, o che non mi sveglio alle 5? No, No, no, è una buona notizia che sia venerdì, che sia per il weekend, che uno si può rilassare. Ecco, ecco. E te mi frega relativamente, diciamo. Eccola là, e prima badabam, prima mazzata, uno fa un po' il piacione con Luisella Costamagna alle 6:30 del mattino, no, e badabam! No, figura, ti sei un mito, ho sentito. Ah, sei sì, adorato, ah, sì, dai, sì, sì, ascoltatori. Sì. Quell'audio di Enrico Mentana l'ho stampato e me lo sono appeso in camera. Capito? C'ho un audio di Mentana appeso in camera, sì, va. Come iniezione di autostima. Sì, dai, certo, dici. No, com'è, no, uno si sveglia un po' così e c'ho l'audio di Mentana che mi guarda appeso in una cornice in camera che mi dice se così. Lo metti davanti allo specchio. Esatto, se... esatto, una gloria radiofonica. Sono le 6:35 minuti, come avete sentito queste 24 mattino, che bella questa canzone iniziale, me la fai sentire per un quarto d'ora, ti prego. Non so, sento già di volere un po' più di rock in questo momento alle 6:30, non so, vorrei Litfiba tipo per... Metallica, come Formigoni, così esatto. Rimaniamo in tema di Papa, diciamo. Ah, in tema di Papa. Allora, insieme al nostro Lorenzo Nespoli in redazione, insieme al nostro Peter Bescapè in regia, apriamo subito il Parlamento. Adesso vado a prendere un ti caffè, informo, fermato, ti informo, cara Luisella, che in questo momento Vladimir Luxuria, che abbiamo chiamato, al cellulare spento. D'altronde, ecco, avrà fatto le 3 mai di notte. Mai fidarsi di Vladimir Luxuria. Mamma mia, proprio inaffidabile al massimo. No, non è vero, scherziamo. Ti tocco io. Vabbè, adesso, insomma, in radio sei al telefono. Però, allora, cara Luisella, qui il Papa ti piace, insomma, questo Papa che interviene sulla politica americana? Poi parliamo magari del fatto che non intervenga sulla politica italiana, invece questo lo dice. Vabbè, ma il messaggio che dà, ovviamente era riferito a Donald Trump, ma mi sembra che di persone... che dicano in questo momento che bisogna alzare muri invece di fare ponti, ce ne sono un po' dovunque, quindi è un messaggio un po' per tutti, i non buoni cristiani. Dopodiché ogni volta in aereo, diciamo tra le nuvole, forse la vicinanza a Dio gli consente di dire delle cose che sono assolutamente condivisibili. Condivisibile. Ha parlato anche delle donne, no? Visto che è uscita tutta sì, però voglio cosa, dire, che... Trump, cioè, potrebbe, e infatti lo ha fatto arrabbiarsi parecchio, no? Cioè, dire quel candidato non è cristiano è pesante, no? È no, pesante, no? Però dopodiché è vero che molti si spacciano per cristiani, ma dire, insomma, le cose che si dicono sull'immigrazione non è da buon cristiano. Dopodiché che il Papa dica che appunto sulla contraccezione solo nel caso di Zika, certo è un passo in avanti, ma vorrei che sì. Ci fosse un passaggio, un'apertura alla contraccezione anche al di là di Zika. Dopodiché fa il suo mestiere, che la Chiesa non si intrometta, non si mischi nelle vicende politiche sul riferimento alle unioni civili, magari il Papa direttamente no, ma i suoi vescovi. Ecco, infatti, attenzione, non fatevi ingannare su questa frase che per carità andrebbe scolpita, io l'ho già scritto su Twitter, andrebbe come la legge uguale per tutti nei tribunali, andrebbe scolpita la frase che il Papa ha detto, cioè il Papa non si mischia nella politica italiana, andrebbe scolpita. Il problema è che, come hanno fatto notare molti analisti, come ci stai dicendo Luisella, il Papa già in passato aveva detto: io non mi mischio perché delle politiche nazionali si devono occupare le conferenze episcopali, cioè i vescovi. Quindi non vuoi, certo. Il Papa non si mischia, ma nel senso che ci sono i vescovi. Certo, no, ma infatti le prese di posizione le abbiamo sentite. No, sulle unioni civili sarebbe bello che, cioè, il potere temporale della Chiesa sì. Viene mantenuto, e quindi insomma le ingerenze nelle vicende anche politiche da sempre ci sono. Però cara Luisella, allora, siccome come abbiamo detto, siamo con Luisella Costamagna, non lo devo dire, ecco. non lo dico perché sennò la gente dice: ma che sei rimbambito? Perché abbiamo chiamato al volo, e lo ringraziamo, un uomo che per me è un mito, è sempre sveglio a quest'ora ed è pronto con noi, è il grandissimo scrittore Mauro Corona, che torna al Parlamento. Buon mattino a voi. C'è Luisella Costamagna, caro Mauro. Qui. È una in gamba, la conosco. Ricambio la stima. È una in gamba. Mauro Corona, ha sentito, c'è questo Papa che interviene a gamba tesa, stiamo parlando di questo, su Donald Trump. Ha sentito che ha detto, non è un cristiano, ha detto Donald Trump. È un'accusa gravissima per un Papa. Insomma, sì, se è battezzato è un cristiano anche lui, però il Papa che abbia queste così, affermazioni, posso anche capire, essendo al vertice della Chiesa, che mi fanno più paura sono questi vescovi, questi intrallazzatori nella politica, si occupino di anime, si occupano di carità, spoglino i loro tesori e diventino veramente francescani. Il Papa non mi fa paura per queste persone, mi fa paura. Guardate che il Papa non esiste, cioè esiste nel, come figura. I veri papi sono i Navarro Valls, quell'altro che lo segue, come si chiama, i Bagnaschi. Quelli che stanno accanto al Papa. Sono quelli. Cos'è adesso che è vicino al Papa Bernabé? Chi è? Quello che segue il Papa, padre Lombardi. Padre Lombardi è il portavoce della Sala Vaticana. Questi sono i papi. Quelli che detengono il vero potere. Ma guardi, Navarro Valls guidava lui il Papa. E noi stiamo lì, adoriamo il Papa, che mi va bene. Ho una grande stima di questo Papa. Però il Papa non è lui. Sono quelli che li stanno attorno. Queste eminenze grigie si impicciano in tutto tranne che di anime. Eccolo lì, Mauro Corona, mi piace quando... come va Corona oggi? Che aria tira lì in montagna? Ma a Erto, dove l'abbiamo chiamata? Dove sì, siete? Sono a Erto, paese rovinato, la pace, la salute e la vita dal disastro del Vajont. E mai si è presentato nessuno qui, neanche nel cinquantesimo di 2000 morti, a fare una carezza sul pelo bagnato di questa gente ancora. Nessuno. Niente. Né papi né presidenti della Repubblica. Vabbè, lì il Papa magari cosa c'è? No? Ci voleva più un politico italiano. Ma no, anche lui a dire una messa nel cinquantesimo due anni fa del Vajont. Perché no? Vanno dappertutto, è doverosissimo. Sì. Vanno a Lampedusa, vanno a rendere omaggio ai morti del terremoto del Friuli. Ma scherziamo. E chi siamo noi? Non ho mai visto nessun napoletano, l'abbiamo invitato espressamente, neanche napoletano dovrebbe vergognarsi il resto dei giorni che vive. Insomma, bella questa polemica, ci piace così, cara Luisella, il nostro Mauro Corona. Tra l'altro sì, mi chiedono ci piace perché dice delle cose che rompe l'ipocrisia. Ma perché, esatto, dice le cose che pensa la gente comune, il popolo che lavora, che si sveglia, che è operoso, che no, legato alla propria terra, legato alle proprie tradizioni. Allora mi scrivono, mi salutate la bellissima Costamagna, Fabri, eccolo qua Fabri, abbiamo salutato la bellissima Costamagna. Saluto Fabri, ringrazio. Che non è Fabri Fibra, è Fabri e basta. Sarà Fabrizio. Fabrizio. Allora, c'è da parlare però un attimo delle unioni civili per capire questa cosa che... Ecco, è saltato tutto. Tu dai, Luisella, chi dai la colpa? Tu che sei grillina, si sa, non lo vuoi dire, ma... Io sono una persona che cerca di dire quello che pensa e cerca di rompere l'ipocrisia da un altro punto di vista rispetto a Corona, da giornalista. E però, di chi è la colpa per ora di questo? E qui c'è l'ipocrisia del Partito Democratico, che è assolutamente spaccato, ha paura di se stesso, meglio, ha paura di far vedere che è spaccato e che non vuole. La stepchild adoption, ecco. E quindi dà la colpa al Movimento 5 Stelle. Io ho la sensazione che il PD non voglia questa legge, in particolare Renzi, che infatti nel 2007 partecipò al Family Day, in realtà non la voglia, perché basterebbe stralciare la parte delle adozioni che crea delle perplessità, indubbiamente le crea anche a me, far passare gli unioni civili, che sarebbe una rivoluzione comunque per il nostro paese, per le coppie omosessuali, e portare a casa almeno un buon risultato. E invece qui non passerà e si dirà: io ci ho provato tenendo il voto cattolico e conquistando il voto della Siamo proprio al complotto, hai capito? No, è interessante questo, Mauro, cioè dice la nostra Luisella che in realtà è Renzi stesso che non lo vuole. Assolutamente. No, ma ascolta un attimo, perché ho qui cosa disse Renzi sull'Avvenire, no? A proposito di vescovi, delle ingerenze della Chiesa nel 2007, disse: non ritengo quella delle coppie di fatto una questione prioritaria su cui stare meglio a discutere. Ma questo è quello lì che aveva detto. Per poi trovare una faticosa mediazione. Però, mi sembra un controsenso rispetto alle vere urgenze. Però questo è interessante, cioè nel senso questa idea del complottone. Cioè, il complottone, Corona, è così, cioè non lo vuole Renzi addirittura. Ha ragione questa, ma è Renzi che non vuole, pur manovrando affinché non possa essere scoperta invece così palese. E il PD, io l'ho votato, ho votato sempre a sinistra, non so più cosa fare. Ha votato il PD, Corona, attenzione. Ma quello il PD, ma quello io, noi abbiamo votato qui anche la Serracchiani, abbiamo cercato di dare una mano affinché svoltasse. Ma quelli, dove sono questo PD? È quello lì il PD. Ma no, sono loro che tramano, sono loro. Allora Corona, faccio sentire la Serracchiani, eccola qua, la Serracchiani proprio ieri cosa ha detto, senta un po'. Il Movimento 5 Stelle ha deciso di sacrificare i diritti civili in nome dello sgambetto da fare al Partito Democratico. Ha visto l'odore del sangue e ha ritenuto di poterlo fare. Capito, Corona? Sì, ma l'ho anche sentita, ma è chiaro che si passano la colpa uno con l'altro. Se la gente italiana fosse, il popolo italiano fosse un po' più attento, non che sia sciocco, ma un po' più attento, li capirebbe subito e li piglierebbe a calci nel sedere questo PD. Ah, quindi dramma di Corona, cioè che ha votato PD non sa più cosa. No, ho votato tutta la vita io sinistra. Credo che assieme a Vauro sia l'ultimo comunista italiano, Corona. E adesso? Io e Vauro. E adesso? No, basta, cosa fai? No, ormai non esiste più, c'è questo anguillamento dentro per avere le poltrone, per avere il potere, per avere la visibilità, per avere anche... E però non costruiscono nulla. No, dico, la crisi a sinistra di Corona, beh, interessante, voglio riprendere da qui dopo il traffico, l'anguillamento è bellissimo. Tra un attimo, Mauro Corona e Luisella Costamagna, state qui. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Basta! Basta! Basta! Politici italiani! In 10 anni le tasse sono cresciute del 248%. Ma veramente, cosa vogliono? Il sangue? Il sangue vogliono? Oi Milan, ti ricordi la notte delle ramazze a Bergamo? Le ura de Netafol Polir? L'esistenza della Lega assomiglia di più, sempre di più, alla scala di un pollaio, corta e sporca di merda. E mangiamose tutto con l'Olimpiadi. Milan, adesso vogliono fare anche le Olimpiadi. La sinistra si è ingozzata di soldi con i mondiali di nuoto, con tutte le zozzerie che ha fatto. Ce lo siamo scordato? Come sta, sono Fiorentino. Senti, a parte il fatto che noi toscani forse ci sta tanto simpatici, ma è uguale, non ti preoccupare. Però dicevo, se tu vieni a mangiare con me ti può camminare sul d'arte come il nostro signore. Ciao! Grande Fiorentino, abbiamo un appuntamento e prima o poi ci incontreremo. Allora, vedi qua tantissimi messaggi per Luisella Costamagna, bella, brava, eccetera. Poi c'è questo fantastico, il nostro fornaio da Ravarino. Senti qui, caro Alessandro, salutami Corona. Sono un suo ammiratore da quando l'ho incontrato al bar di Erto, quando ero in gita con la scuola nelle terre del Vajont. Questo è un fornaio da Ravarino, caro Mauro Corona. Marco, arrivano. Tra l'altro fa il fornaio, quindi quando era a scuola, chissà, qualche anno fa. Vabbè, insomma, sì. la crisi a sinistra di Mauro Corona, possiamo dire così, nel senso, non sa più Luisella. Non è più a sinistra, cioè Corona mi sa che è rimasto assolutamente coerente con dei principi di diritto che sono di tradizione di sinistra. Il PD che non è più di sinistra, con Renzi e con le Serracchiani è diventato un partito di centrodestra, tant'è che ha sbarellato completamente il centrodestra. Addirittura è diventato di centrodestra il PD. Ma certo, ma è un dato di fatto, è così, no? In fondo la storia di Renzi è una storia di DC, nasce nel Partito Popolare, stiamo parlando di cattolici di centrodestra, la sua politica è una politica di centrodestra. Sì, è un po' democristiano, questo sì, ecco, Corona, un voto per la Democrazia Cristiana l'avrà dato prima o poi qualche volta in passato. Io? Ma ma neanche per idea, ma scherzo. Bravo, ma neanche, lo so, ma no, tutti hanno votato una volta la Democrazia Cristiana, no? Io sono io non l'ho mai votata, facevo a me anzi qui vinceva il PC per un 80% ai tempi d'ora, ma non sono un nostalgico, ma guardi che qui stamattina io, che sono sempre stato anti-berlusconiano, oggi tramite la Radio 24 chiedo scusa a Berlusconi. Attenzione. Ufficialmente, perché se Berlusconi avesse fatto un quarto di quello che sta facendo Renzi, l'avessero fatto a fette. Quindi io ufficialmente tramite questa radio chiedo scusa a Berlusconi. E allora, caro Corona, visto che ha citato la Serracchiani, abbiamo la Serracchiani, sembra che ce l'ha già nel pensiero, ha citato Berlusconi, eccolo qui Berlusconi, sentite che dice, che ha detto ieri Berlusconi, bisognerebbe scendere nelle strade. Noi siamo un popolo di pecoroni, dovremmo essere nelle strade a chiedere lo scioglimento delle Camere e nuove elezioni, e invece siamo qui a festeggiare i 20 anni, io sabato festeggerò i 30 anni di mia presidenza del Milan, perché l'abbiamo presa così. Caro Corona, cioè dietro a Berlusconi come nelle strade, sarebbe una scena clamorosa, Mauro. No, questo no, non lo, quello non lo vedremo. No, ma la gente pian piano, ma la gente è ancora un popolo civile. Qui Oscar Wilde diceva dell'italiano: l'italiano è un popolo molto intelligente, di conseguenza pigro. Non si arriverà a questo, ma io vedo un... non lo so più avanti, ma credo che succederà qualcosa. Potrebbe essere un non più andare a votare, la gente si stanca, già adesso ma ancora ci vanno. Quando le urne saranno vuote, isolatamente vuote, allora capiranno che qualcosa non va. Non è possibile vivere di finzioni, le ha già scritte Borges. Questi devono fare, ma prima, dopo, durante, la destra, la sinistra, facciamo, alla fine cosa sono i conti? Guardiamo bene cosa sono. Tra l'altro, Corona, sai che Borges è quello che Renzi ha citato, sbagliando, la sa questa, che è andato in Argentina ha sbagliato? No, non la sa. Ha citato una poesia attribuita a Borges, citandola, anzi gliela faccio sentire in spagnolo, ma non è di Borges. Vorrei leggere alcuni versi di Borges, quando nel poema L'amistad dice: non è lui. Non puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida. Non lo so, dice che è stata attribuita a Borges dalla rete, diciamo, dai social. Tra l'altro dicono una pronuncia da tre, più o meno, da tre. Ci hanno scritto ieri tantissimi ascoltatori da Valencia che ci ascoltano, dicono una pessima pessima da parte di essa. Beh, quando si mettono a parlare le lingue estranee all'italiano, ma non parla neanche l'italiano, ma avete sentito? No, vabbè, dai, almeno l'italiano Renzi lo sa, l'italiano lo sa. Ma avete sentito Razzi, o quelli che pronunciavano la parola lì delle adozioni, che io non la pronuncio perché non la so, se me la provo a leggere la pronuncio. La stepchild. Sono cose veramente, cose, poi sì, le risse in Parlamento, queste cose cafone, il Parlamento rappresenta anche me, che sono l'ultimo del ecco, quindi ci vorrebbe una disciplina. Chi fa il barruffante da bar sport d'osteria deve andare via. Lo si deve proprio mandare a togliere il patentino di poli. Senta, Broski diceva: se noi scegliessimo i nostri governanti in base alle loro biblioteche o alle loro letture e non in base ai loro programmi di politica, forse il mondo piangerebbe meno. Sono dei rozzi ignoranti. Non ce ne sarebbero di grandi politici in Italia, questo è. No, io mi devo fermare qui, però quando volete, cara Luisella, certo mi scrivono, ma lo sai che Luisella tifa Juve, mi scrive Antonio. Insomma, un difettuccio glielo vorremmo trovare anche a lei, mamma mia, la nostra Luisella Costamagno, un difettuccio. Si guarisce da quello. Io confermo quello che dice Berlusconi, se avesse fatto un decimo delle cose che ha fatto Renzi saremmo stati tutti in piazza. Quello che dice Corona, sì. Vabbè, insomma, comunque da quel difettuccio juventino si guarisce, se ti applichi si guarisce. Vi ringrazio molto Luisella Costamagna e Mauro Corona, alla prossima. No alla stepchild ad pishon, che rischia ad option, scusate.